singarti e farti gala con occhiate trepide. Ma più cercavo il tono, sai, più non mi risolvevo mai. Chissà perché. Ma più cercavo il suono, sai, più l'armonia faceva guai. Chissà perché. Avrei dovuto inviarti un po' di me, quel tanto che non sai che c'è, facendo meno degli slanci dei tuoi su e giù. Avrei dovuto inviarti quel che c'è di bello e fragile in me, per fartelo osservare con religiosità. Ma più cercavo il tono, sai, più non mi risolvevo mai. Chissà perché. Ma più cercavo il suono, sai, più l'armonia.